Avventurieri, il marinaio diceva la verità. Voi l'avete condannato, e con lui voi stessi. Siete stati colpiti dalla maledizione di Caelor. Perdete punti, ma le acque sono clementi oggi. Vi concedono una seconda possibilità. La vera mappa, quella del marinaio, è ancora con voi. Prendetela, è la sola che può condurvi alla chiave.